nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Sembrerà, ecco, voler, diciamo, autocelebrarsi, ma ditemelo voi se ogni volta che ci ritroviamo qui il sabato non si conferma ogni volta che non ci sono più le mezze stagioni, nel senso meteorologico. Io cerco delle metafore, no, in tutte le notizie della settimana, ogni volta che ci dia il segno dei tempi, ma guardate qua. Era quasi estate, 27 gradi a Milano solo pochi giorni fa, poi siamo passati a un 5, adesso diluvia, non so voi come state, ma mi sembra che questo fine settimana sia un po' temporalesco dappertutto, ma poi troveremo anche la metafora di questa settimana. Intanto è stata una settimana incredibile, mi siete resi conto? Io cerchiavo prima di fare un riassunto dentro la mia testa, andare un po' a braccio sui fatti della settimana, ma una cosa incredibile, a cascata, non ci si annoia mai a questo mondo, diciamo la verità. E quindi vi dico subito, anche voi fate un po' il punto della situazione, provate a pensare a quali sono le notizie che vorreste commentare qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Vi do il numero verde, come sempre gratuito, 800 24 00 24, numero verde anche ecologico, quindi, no, in qualche modo, a suo modo, 800 24 00 24, non so se leghista, non credo, ma vedremo, mi pare che questo sia abbastanza al centro di questa settimana. Allora, vogliamo cominciare così molto sinteticamente a raggruppare qualche notizia di questi giorni. Intanto iniziamo subito con delle notizie positive, no? Tanto per tirarci su in momenti così grigi in senso generale. La disoccupazione. Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, ha detto che crescerà ulteriormente. Quindi, insomma, qualcuno che diceva, ma vediamo man mano, speriamo che le cose vadano meglio. Ecco, questo è il pronostico di Draghi. Poi avete sentito la Spagna, che rischia di affondare, e sapete che tutto un domino in Europa e nel mondo, e quindi tutti spaventati con apprensione a guardare le sorti della Spagna. C'è stata, a proposito di buone notizie, la riforma, ma almeno ancora così in fieri, della protezione civile, e quindi una tassa che era uscita dalla porta. Voi sapete quelle cose che escono dalla porta e poi pluff, vi ritrovate dentro dalla finestra. Questa tassa da 5 centesimi sulla benzina per in caso di emergenze, di imprevisti per la protezione civile. Si chiama la tassa della disgrazia, Maroni l'ha battezzata in questi giorni, che era particolarmente creativo in questi giorni, la tassa della sfiga. Poi notizia di poco fa, sempre a proposito di notizie positive, strage di Piazza della Loggia, quella di Brescia del 64, tutti assolti, rabbia dei parenti delle vittime, parenti che devono anche pagare le spese processuali. Immaginatevi, questo è davvero, si conferma, a proposito non ci sono più le mezze stagioni, altre mezze stagioni invece ci sono, è sempre così, quando ci sono questi fatti, questi processi, questi grandi misteri dell'Italia, tali sono destinati a rimanere. Non lo sapremo mai, insomma, anche in Piazza della Loggia, chi fece quelle vittime, chi portò avanti la strategia della tensione. Poi notizia, diciamo, un po' centrale di questa settimana, la tempesta sulla Lega. Che cosa avete da dire su questo argomento? Sono stati tantissimi i commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, poi cercherò di andarci velocemente, sono stati tantissimi, proprio a pioggia, anche per dimostrare quanto è sentito questo argomento del finanziamento pubblico ai partiti, chiamato ultimamente, negli ultimi anni, rimborso elettorale. Un rimborso elettorale, pensate, che è del 400%, cioè uno spende tot, un partito gli danno il 400% in più, è un paese generoso questo, riconosciamolo. E poi è stato rilasciato Bozuso, l'ostaggio italiano in India. Purtroppo questa crisi porta, mi pare che siano ormai arrivati a 23 suicidi di imprenditori, piccoli imprenditori e di persone che avevano perso il posto di lavoro negli ultimi mesi. Il problema degli esodati, sapete, quelli che sono un po' di qua, un po' di là, dicevamo l'altra volta, nel purgatorio, nel limbo, non sanno bene, sono usciti dal lavoro perché li hanno incentivati a uscire, però poi non possono avere neanche la pensione perché gliel'hanno ritardata, e questo è un grosso problema. Sull'estero, la Siria continua a essere un mattatoio. La morte di Miriam Mafai, grande firma del giornalismo italiano e scrittrice. Insomma, ne abbiamo raccontate tantissime. Riflettete voi qual è l'argomento sul quale volete fare i vostri commenti. 800 24 00 24. Ma vi dirò anche, a proposito, invece, cioè, lasciando da parte il meteo, che cosa ci conferma questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, neanche le intere, sono un granché. Credo di dire anche una buona notizia per Pippo, che è la parte tecnica. Ebbene sì, lui che è un mangiatore di cose, vorrei offendere a volte, di cibo junk food, di cose non molto, molto. i popcorn, quanto li hanno demonizzati negli ultimi anni, invece sappiate che sono lo snack perfetto e salutare per tutti. La scienza promuove i popcorn come appunto i più salutari. Il mais scoppiato vince, dicono, il confronto non solo con gli altri spuntini, noccioline, patatine, tortiglie, addirittura con frutta e verdura. Il mondo si ribalta. Il popcorn ha il più alto contenuto di polifenoli, che vanno molto di moda ultimamente, antiossidanti naturali, 300 mg a porzione, quando la frutta ne ha 160. Dicono, va bene, non è che questo debba sostituire la frutta, però sappiate che i popcorn vanno benissimo. Mi pare una buona notizia, Filippo Reggi, la parte tecnica. A te piace il popcorn? Ma chiediamolo tra pochissimo, allora, l'opinionista estemporaneo di oggi. Chi sarà, signore e signori? Veronica Pivetti. Eccoci Veronica. Scoppiettante, no, come un popcorn. È strepitosa. È vero? Tu devi sapere che io mi nutro di cose finte. Anche tu. Io mangio solo cose, credo, fortemente cancerogene. Oh mamma mia. Perché bevo solo Coca-Cola. Non me ne frega niente, io faccio pubblicità, non mi importa. Ma sì, anche perché c'è una notizia che riguarda la Coca-Cola tra poco. Sì, lo so già, perché in Sicilia costa un po' meno. È preparatissima. Tu vuoi che una persona che vive praticamente di Coca-Cola non sappia questa cosa? Quando ho scoperto che costava un po' meno, ho detto, ah, vedi che bella cosa. E poi ho scoperto che sono in Sicilia, quindi credo che mi trasferirò. Trasferirà in Sicilia. Ma senti, a proposito di Coca-Cola, ho letto che, appunto, come stai dicendo tu, in Sicilia, preparatissima, diminuirà al litro, un litro e mezzo, diciamo, di 5 centesimi anche 10. Cioè esattamente l'aumento dell'accisa sulla benzina. Tu dici che potremmo mettere anche Coca-Cola nel serbatoio, magari, per risparmiare. Non so. Ecco cos'è. Ho capito dov'è la manovra, vedi le manovre quali sono, noi non lo sappiamo, ma sono queste qua. Anch'io l'ho pensato, ho pensato non che devo riempire il serbatoio di zucchero, che è una cosa notoriamente che si fa per sabotare le macchine. Ci vogliono sabotare in tutti i sensi, mi sa che vogliono sabotare. Tra l'altro, vedi, io e Veronica già siamo in sintonia improvvisamente con questa dietrologia, pensare che ci siano delle strategie, una quella appunto di sabotare i serbatoi delle nostre auto, dall'altra però mi viene anche da pensare che sia una strategia ecologica, è possibile? Cioè, leggo che la gente sempre più lascia la macchina a casa, disperata, per i costi della benzina. Quello che costa bicicletta, la benzina, sai, 2 più 2 di solito. No, ma attenzione, c'è un'altra notizia, perché voi avete dato, devo dire, un quadro della settimana eccezionale. Grazie. Però, tutto da sé, da sola. Però sì. Io sono un po' scioccata da questa notizia, che però a questo punto chiedo a voi quanto è vera. Dimmi. Del fatto che vogliono permettere ai ciclisti di andare contro mano. È vero, è della scorsa settimana questa notizia. Vabbè, è un omicidio praticamente. Vogliono eliminare dei ciclisti. Beh, io sono un ex ciclista. Trovo che sia un po' rischioso. Poi devo dire, quando andavo in giro in bicicletta, perché a Milano si può perché è tutta piatta, Roma è un po' più faticoso. Sì, però è pericoloso, ti assicuro, a Milano. No, è vero. Però insomma io ci andavo tanto, ho campato in giro, anche perché non avendo la patente, sai, non è che potevo fare diversamente. Ma ogni tanto facevo anche qualche infrazione, sicuramente. Ma dare proprio l'ufficialità a questa cosa mi sì, pare un po' è grande, tutta no? Una strategia, vero? Noi l'abbiamo capito, è tutta una strategia. Ci vogliono dimezzare. Anche perché poi, dopo ci sarà un collegamento da Marte, forse capiremo anche che qui, sì, vogliono, diciamo, un po' sforbiciare. Hanno deciso che siamo troppi. Siamo troppi. E quindi ci fanno in un modo chi nell'altro, quindi probabilmente i popcorn invece fanno malissimo. E invece può darsi che quindi aumentando, invece, la passione per i popcorn, dicendo che fanno bene, qui insomma pensiamoci, perché improvvisamente mi sembra di intravedere, di illuminarmi su tutto un filo conduttore che lega varie notizie anche questa settimana. Cercheremo di scoprirlo anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori all'800 24 00 24. Veronica, quindi ci hai rivelato anche che non è, anche se fiction io ti vedo guidare qualche volta, quindi ti spingo sul carrello, sul tapis roulant praticamente. Io sono sul camera car e vabbè, ma tu non sai, per farmi fare i parcheggi mi tirano con la corda. No, io non so fare. Allora, io so fare alcune cose nella mia vita, ma la macchina, i motori, ma alludo anche al motorino, io ho preso una volta un motorino, sono finita contro un muro, ho detto benissimo, lo vendo stasera stessa, e quindi quello è stato escluso. Hai fatto un gesto di generosità nei confronti degli altri, effettivamente. Assolutamente, ma perché uccidere della gente, appunto, quando se ne può fare gratuitamente, meno? Questa sì. È una domanda. E poi la macchina, non ho mai preso la patente e riesco a campare, ho 47 anni, ce l'ho fatta fino adesso, spero di farcela. Veronica, tu sei il prototipo della persona quindi che può vivere bene in questo momento, che mangi varie schifezzine, quindi non usi la macchina, non inquini, non consumi benzina, non spendi di benzina. perfetta sei, Veronica. Sì, guardi, infatti volevo dirlo io, sono perfetta. E nonostante questo, però, Veronica, tu ti sei ciucciata una depressione dal 2002, dal 2008, il tuo libro, l'ultimo libro, Ho smesso di piangere, e il titolo del tuo libro, già questo mi mette di buon umore, almeno hai smesso. Sì, almeno ho smesso, ecco. Esatto. Sì, sì, è vero, io ho avuto una depressione fortissima, a parte che ho già raccontato anche ai vostri microfoni diffusamente il mio libro, e devo dire... ringrazio voi e tutti quelli che mi danno la possibilità di parlarne, perché tra l'altro questo libro è andato benissimo, insomma, essendo io alla mia prima esperienza letteraria, adesso vorrei un termine che mi imbarazzo un po' a dire esperienza letteraria, per me le esperienze letterarie sono quelle di Proust, ma a parte quello, diciamo che ho scritto un po', ho provato a scrivere, ovviamente mi ha dato grandi soddisfazioni, però è vero, parla di un argomento, ecco, che conosco molto bene perché l'ho vissuto, insomma, io sono stata per 6 anni malata fortemente in depressione, ne sono uscita con medicine, con medici che hanno tentato di farmi la pelle, perché sai, io ho letto un medico killer, c'era anche un medico killer. Sì, io rientro nel protocollo, in un qualche protocollo che voleva farmi secca, evidentemente, perché ho incontrato tanti di quei medici che in un modo o nell'altro hanno tentato di eliminarmi, che poi per fortuna invece qualcuno non era stato avvisato e mi ha salvato. Veronica, meno male che sei tra noi. Quindi questo libro ultimo di Veronica, il primo di tanti altri, immagino. Pubblicato da Mondadori, Ho smesso di piangere, la mia odissea per uscire dalla depressione. Diciamoci una cosa, però, tu per fortuna da quella grave sei uscita, no? Uno direbbe, come Veronica Pivetti, tutta così più scoppiettante del popcorn, come fa a essersi depressa? Invece, vedete, può capitare veramente a tutti in modo imprevedibile. Però diciamo anche, ma questi tempi usciti da quella forma di depressione deprimono un po' o no? Secondo te? Ma sai, questi tempi io credo che adesso io... appunto, intanto premetto, nel libro ho raccontato la mia depressione, ciascuno c'ha la sua, e poi io non sono un medico, sono solamente un ex malata, niente di più, e oltretutto a me è andata molto bene, perché io comunque grazie a delle cure, grazie a un grande impegno, a una grande amicizia, sono riuscita a uscirne, psicofarmaci e psichiatri anche, insomma, io ho avuto un bel cocktail di cose prima di uscirne. Poi ci sono anche un sacco di persone che non escono, purtroppo, e questo è molto... e questi tempi, guarda, con il problema lavoro, che secondo me è un problema, secondo chiunque, è un problema enorme, mastodontico, credo che le depressioni saranno tante, perché io poi personalmente penso che senza lavorare non si possa vivere, nel senso che il lavoro è proprio la nostra espressione, la nostra identità, il sostegno anche economico. È il nostro modo di comunicare agli altri come siamo, oltre che con la nostra persona e con i nostri rapporti, ma insomma il lavoro è veramente qualcosa che ci aiuta a vivere. Se penso a quello a cui vanno incontro i ragazzi, non solo i ragazzi, perché tu hai appena parlato degli esodati, quindi ecco, quella infatti non a caso fra le origini della depressione ci sono un grande lutto, la perdita di un rapporto, una separazione e la perdita del lavoro, per cui è molto drammatica la nostra situazione. Siamo messi di questo paese molto male. Veronica, io tra poco, dopo gli aggiornamenti sulla viabilità, ti chiederò, visto che tu sei milanese, cosa ne pensi di tutto questo sconquasso della Lega, ma intanto voglio solo chiedere a Nicola da Milano, 800 24 00 24, qual è il tuo argomento? Pronto? Sì. Sono io? Sì. Salve. Mi pare che sono il famoso mobilitato, tanto il famoso mobilitato, quello del riso in bianco. L'altra volta il taleggio, stavolta che cosa? La stavolta mi faccio gli spaghetti col pomodoro. Col pomodoro, piatto classico, quello che piace a tutti, che fa bene. Niente popcorn per oggi. Sono capitato proprio a fagioli, in base a quello che hai detto anche la Molto bene, a proposito di fagioli e di mangiare. Sei capitato a fagiolo, sei il mobilitato che ogni tanto appunto si fa sentire qui, e non ci sono più le mezze stagioni. Cosa volevi sottolineare? Dunque, io volevo sottolineare il fatto che capisco la problematica degli esodati, per carità. È una problematica seria, è molto più problematica la condizione di noi over 40, anzi nel mio caso over 50, che sono rimasti senza lavoro. Certo, è grave anche quella, non è una questione di fare chi è più in gravi situazioni, chi è meno, chi togliamo, chi mettiamo, diciamo che è una situazione. Io volevo anche approfittare dell'occasione, se me lo permetti, innanzitutto di sollecitare il ministro Fornero a occuparsi, oltre che dei soldati, anche di noi, anche delle persone appunto over 40, over 50 rimasti senza lavoro, e il cui ricollocamento è veramente difficile, arduo, veramente un problema difficilissimo, se non impossibile. Io comunque mi sto dando da fare, fortunatamente non sono caduto ancora in depressione. Quando lavoravo anni fa ero caduto in depressione. Pensa un po', invece il fatto adesso di... è come, mi viene in mente una frase di Ungaretti, l'allegria del naufrago, no? Un'opera di Ungaretti, l'allegria del naufrago. Sì, è che così, magari sono in un naufragio, però mi sento allegro, anche se sono circondato dal mare, sono su una zecca. Forse la situazione in cui ti trovi ti costringe più o meno inconsapevolmente a essere tonico, diciamo, quindi tonico. Non ti puoi afflosciare. Volevo solo, se mi permetti, di dare una... Io sono iscritto, faccio parte da un po' di anni, di un'associazione che si occupa appunto del contatto con le istituzioni per sollecitare, per diciamo... fare in modo che le istituzioni si interessino delle nostre problematiche. Posso lasciare il sito di questa... E lasciamo questo sito. Non è chiaramente a fini di lucro. Sì. Si chiama Atdal, www.atdal.eo, che sarebbe... Punto eo? Sì, te lo ripeto, www.ancona-torino-domodossolo-ancona-livorno, atdal.empoli-udine-eu. E questo è nata esattamente 10 anni fa, adesso oggi ricorre il 10° anniversario della fondazione di questa associazione. Invito tutti e soprattutto la ministra Fornero e tutti quelli interessati a entrare nel nostro sito e a rendersi conto finalmente della realtà delle persone. Grazie Nicola, grazie. Okay. Buona continuazione. La prossima volta Angelo da Brescia. Grazie, non ci sono più le stagioni, le mezze stagioni, ma questa veramente è proprio la verità. È la verità. Io martedì sera ero a Bergamo, mi hanno fermato. Ma per l'orgoglio padano eri lì? Sì, no, io sono schifato dall'orgoglio padano. Ah. Mi hanno fermato perché sarei saltato sul palco e li avrei mandati a casa tutti quelle persone. Cioè tu sei andato lì ma per vedere che combinavano, non per sostenere? Sì, no, ma io sono stato leghista. Ah. Ma delle ultime cose mi hanno schifato. Continuo a dare a colpa a Roma ladrona, Roma ladrona. Ho creduto in queste genti, ho creduto nella Padania Libera, non il quanto di non aiutare altre persone. Ho creduto, sono 30 anni, ho creduto. Ho conosciuto i vari, non posso fare i nomi perché erano miei clienti, ho creduto. Ma dopo questo tonfo veramente mi hanno fatto schifo, dai Maroni ai Calderoli. Devono andare a casa tutti, c'è il Zaia, c'è Tosi, persone oneste, queste sono oneste, non gli altri con la scopa verde, dovevamo dare delle scopate. Poi dico, anche il Presidente del Consiglio vuole mettere ancora un alcise sulla benzina, faccio il rappresentante, spendo molto meno di telefono a chiamare i clienti che andarli a trovare. Angelo, dimmi una cosa, visto che allora, sei un ex leghista ufficialmente, si può dire questo? Sì, Angelo, sì. Voglio dirti questo. Due o tre domande, velocemente. Sì, sì. Tu credi che, come ha detto Maroni, sul palco Bossi sia stato raggirato? No, sapeva tutto Bossi. Sapeva tutto, sono tutte balle. Bossi è ricattato da quando è stato ammalato. Dimmi un'altra cosa, la questione di Rosi Mauro, no? Adesso non sappiamo, non è indagata al momento, però uno dice... Quella è una persona che doveva stare al suo posto, perché lei sapeva, ha dovuto tacere, le hanno fatto tacere. Ma il fatto che abbiano urlato, no, i cori verso il palco, puttana, insomma, tipici termini che usano contro le donne. Quando io facevo gli scioperi, abbastanza che uno stavo dicendo una parolaccia, allo stadio, che quando si dicono le parolacce... Abbastanza che uno lo dica, tutti vanno dietro come occhi. Il branco un po' si fa. Insomma, qua dava fastidio che fosse una donna. Infatti, martedì sera c'era il branco di idioti. Dimmi l'ultima cosa, Angelo. Sì. È il fatto che invece abbiamo deciso di non espellere Renzo Bossi, neanche di prendere nessun provvedimento. Sei d'accordo su questo? Ma no, ma con lì bisogna cacciarlo via, cacci dal culo. Si è permesso di dire che la casa di Gemogno non hanno potuto pagarla perché suo padre era ammalato. Ma ci stai prendendo per il culo ancora un'altra volta. È chiarissimo quello, il tuo pensiero. Ti ringrazio, io ho sentito giusto la testimonianza di chi ha creduto nella Lega. Adesso magari ci sono invece quelli che continuano a credere, come moltissimi anche che erano presenti all'Orgoglio Padano martedì. Grazie Angelo. Adesso Veronica Pivetti. Ma guarda, ti dirò che questa telefonata mi fa abbastanza impressione, nel senso che ho pensato molto a quello che stava succedendo. Premetto, tanto perché sia chiaro, che io non sono mai stata leghista, non ho mai condiviso, però è inevitabile pensare che questo ormai è un partito che c'è da tanto tempo e c'è tanta gente che ci ha creduto. Tra l'altro, scusa, forse Veronica, tua sorella, lo sappiamo, Irene, appunto, Pivetti è stata presidente della Camera. Nel maschilismo leghista è stata, dopo Nilde Iotti, la prima e unica presidente della Camera. E, tra l'altro, lei in questi giorni ha fatto diverse dichiarazioni, ha detto anche che secondo lei anche Bossi sapeva, ha difeso Rosimauro nel senso dicendo un capro espiatorio, poi che sia capro espiatorio no, a me non è piaciuto come è stata trattata con le tipiche parole che si usano nei confronti delle donne, certo, che non si usano nei confronti degli uomini, e questo linciaggio che è stata sottoposta. Guarda, quello che secondo me la cosa molto grave che è successa, vabbè, a parte i fatti, adesso ci sarà l'inchiesta, ci sarà tutto, però diciamo che quello che è saltato fuori è molto penoso, naturalmente è molto, ed è soprattutto un enorme tradimento per l'elettorato leghista, perché è vero, come diceva adesso il nostro ascoltatore lì, Angelo, giustamente, era proprio deluso, offeso, colpito, perché dici, ma cavolo, io sono 30 anni che credo in questa cosa. Oltretutto bisogna dire che la Lega per 30 anni ha sempre detto quelle cose lì, cioè non è che ha cambiato bandiera, insomma, voleva quello, vuole quello, il suo elettorato vuole quello, quindi il messaggio è molto chiaro. Io non lo condivido, ma è sicuramente molto chiaro e molta gente si ha creduto. Per cui io credo che sia uno shock per moltissimi leghisti, molto più che per le persone che votano per altri partiti, perché gli altri partiti si sono spesso, insomma, hanno tante volte cambiato direzione, si sono anche avvicendati molti capi, invece questi avevano Bossi che era Bossi, Maroni che è Maroni, cioè hanno un'identità molto forte. E credo che adesso siano veramente sbandatissimi. Io penso anche che ci siano un sacco che non se lo vogliono sentir dire e che tirano dritto e continuano a pensare che è tutta una montatura. Però, oddio, boh, adesso bisognerà vedere un po' che cosa viene fuori. Certo, insomma, la situazione, hanno fatto un, insomma, questo, chiamiamolo un piccolo, un autogol, con un termine troppo gentile, ma questo è veramente uno scossone spaventoso per loro. Senti, Veronica, secondo te Maroni può essere un buon leader adesso? Ma io in quel non ho la più pallida idea, ti dovessi dire non mi interessa neanche, perché io no, cioè è veramente un partito che non mi interessa, che non segue e che non condivido. Poi, non lo so, oltretutto stanno venendo fuori un sacco di cose a carico di tanti altri. Calderoli, per esempio. Come? A Calderoli, per esempio, anche appunto, adesso appunto, è dentro un virato. La prendono col Trota, ma scusate, ma il Trota, però adesso io non vorrei dire, ma non è che sembrasse Einstein anche prima, cioè, per carità, infatti è vergognoso quello che è successo, se è successo, se è vero, è quello col filmato che gli dà i soldi, il banco, ma cioè sono tutte cose di una, mamma mia, di una bassezza tremenda, anche per come vengono poi fuori, per come vengono documentate, per come vengono. Però insomma, non è che prima il Trota fosse proprio l'immagine dell'Italia del futuro, secondo me, mi sbaglierò, ma insomma non è che proprio io riponessi tutte le mie speranze, come forse molti italiani non le riponevano nel Trota. Certo è molto brutto quello che è successo, e penso che questo, ma sai, tu dici questo accanimento contro Rosimauro, ma qualcuno devono far fuori in maniera brutale. Cioè, il problema è che lei intanto è una donna. Certo. E quindi comunque, sai, è molto facile metterla sul rogo, è un classico, insomma, è talmente, e ti dico, io certo non la difendo, perché non è un personaggio nel quale mi identifico, e neanche dovessi dire, neanche ho seguito quello che faceva, la vedevo sempre appiccicata a Bossi, e questa era l'immagine che avevamo tutti di Rosimauro. Però adesso improvvisamente Rosimauro, in quanto donna, è facilissima da colpire. Poi quello, oltretutto, pure ha detto, io non me ne vado manco morta, è rimasta lì, ha fatto la dura, e chiaramente qualcuno da tirare via come un birillo, da colpire c'era, e non è stato, credo che non abbiano fatto fatica a farlo. Però io vorrei sapere appunto Calderoli che cosa ci racconta. E cioè, lo chiederanno probabilmente i PM a Calderoli, e noi naturalmente commentiamo con libertà anche all'800 24 00 24. Adesso, se Veronica Pivetti permette, mi pare che ci sia, mi avvisa Filippo Reggi, questo unico collegamento in tutto il mondo, in tutto il pianeta, che abbiamo con una dimensione extraterrestre. Riflessioni da Marte. Qui da Marte si può dire, osservando come sempre il globo terracqueo da quassù questa settimana, in estrema sintesi si può dire, si deducono due notizie principalmente, una buona e una cattiva. Cominciamo da quella buona, anche se in genere si inizia da quella cattiva. Or dunque, dopo le ultime rivelazioni sui costi dei voli aerei, l'ex tesoriere della Margherita Lusi ha pagato ben 15.000 euro per volare a Londra con un aerotaxi, poveraccio, e altre rivelazioni secondo le quali qualcuno nella Lega Specie all'interno del circo magico usufruiva copiosamente di soldi pubblici a propria insaputa, perché voi sapete, voi che non siete, che non vivete a vostra insaputa, che una buona parte della classe politica italica è ormai conosciuta internazionalmente come classe politica a propria insaputa o diversamente consapevole, che si voglia. Ebbene, dopo tutto ciò e dopo la rivolta delle scope padane, la buona notizia è che nonostante si attendessero sforbiciate sanguinose, stile Profondo Rosso di Dario Argento, sforbiciate sanguinose alla casta, i rimborsi elettorali sono salvi. Ebbene sì, i partiti non hanno nulla da temere. È mai possibile che ce l'abbiano tutti con loro, questi poveri disgraziati? Insomma, PDL, PD e Terzo Polo questa settimana hanno trovato un accordo che salva capra e cavoli, soprattutto i cavoli loro. I rimborsi dunque restano intatti, pare, giusto però con qualche controllino in più. E come estremo sacrificio, i rimborsi, invece che essere incassati subito, dovrebbero slittare a luglio, un po' per solidarietà con gli esodati, no? Che sono stati incentivati, gli esodati, a slittare via dal lavoro e ora si vedono slittare di qualche anno la pensione. Insomma, i rimborsi da 100 milioni quindi slitteranno a luglio, anche se ieri la Lega, dopo gli sconquassi di questi giorni, in uno slancio espiatorio ha annunciato che rinuncerà a questi rimborsi, si starà a vedere. E poi però, come spesso nella vita, c'è anche, diciamo, la cattiva notizia, pessima per taluni, addirittura funesta. E la terribile notizia è che gli esseri umani sono diventati più longevi. L'allarme è stato lanciato con apprensione, enorme apprensione, 2 giorni fa dal Fondo Monetario Internazionale, che ha parlato proprio, l'FMI, di rischio longevità. Qualcuno penserà ingenuamente, ma com'è, ma non dovrebbe essere una buona notizia che si viva più a lungo? Ebbene no. E l'FMI lo spiega senza indugio. La vita più lunga, scrive, mette a rischio il welfare, insomma tutti i sistemi di protezione sociale, diciamo. Bastano 3 anni in più di vita, scrive il Fondo Monetario Internazionale, e i costi lievitano del 50%, i costi sociali. Dunque, se non volete essere sordi e indifferenti a questo allarme accorato del Fondo Monetario Internazionale, smettete di fare i salutisti, di mangiare un po' più sano, smettete di fare attività fisica, di cercare di migliorare la qualità della vita e soprattutto smettete di smettere di fumare. Siete un pericolo per la società con la vostra longevità. Dunque, in definitiva, via, mettetevi una mano sulla coscienza. Che il servo stia assai meglio del padrone. E per cui è, non me ne sono andata naturalmente, Roberta Giordano con voi, sempre opinionista estemporanea di oggi, Veronica Pivetti, che ha scritto un libro per raccontare come ha smesso di piangere, il titolo Ho smesso di piangere, la mia odissea per uscire dalla depressione, pubblicato da Mondadori, ma stavamo parlando di mille notizie di questa settimana, in particolare eravamo concentrate sulla questione Lega, che sicuramente in Italia perlomeno è un tema centrale in questi giorni, con tutto il seguito del finanziamento pubblico ai partiti, rimborsi elettorali, vi dicevo che sono rimborsati del 400% in più, con grande generosità dello Stato e soprattutto dei nostri soldi di contribuenti. Sto vedendo un flash adesso sul Corriere Online. Lavoro, Fornero dice: se riforma non passa andremo a casa. È una minaccia questa. Come la prendi, Veronica Pivetti? Non lo so, una minaccia, una promessa, non si capisce, ma soprattutto il vero problema secondo me è adesso, a parte che poi si dovranno scontrare anche sulla RAI questi partiti. Certo. Lì sarà argomento dolente. Lì sarà, non so che cosa potrà succedere, perché sono tanti i nodi da sciogliere, ma soprattutto facciamo che si torna a votare. Come si fa a votare? Cioè, è difficile adesso trovare il leader, trovare il personaggio. C'è qualcuno che ti piace, donna o uomo che sia, in politica? Porca miseria. È veramente molto difficile. Mi sembra molto difficile, ma non perché non ci sia nessuno che mi piace, anzi figurati, io poi insomma seguo non tantissimo, perché non è il mio argomento principe la politica, ma è assurdo dire questa frase che ho appena detto, perché non può non esserlo l'argomento principe, perché dobbiamo interessarci, quindi sono, per carità, seguo le cose che ci sono. Fai un altro mestiere, però giustamente dice, la politica è dentro tutto quello che noi facciamo. Tua sorella ti contagia con questo? Avete mai discusso, bisticciato su questa cosa? No, guarda, a me, no, lei è sempre interessata molto di più, tant'è vero che poi appunto si è visto anche il percorso che ha fatto, certo. Ma lei si è anche entrata nella Lega, che appunto è un partito che io non condivido, ma insomma vabbè, siamo in democrazia, c'è spazio per tutti, per carità. Però certo il momento è molto difficile, per cui se questi che ci sono adesso se ne vanno, che cosa succede dopo? Cioè gli italiani, primo, gli italiani ci vanno a votare? È una domanda interessante. Perché questa, io non lo so, secondo me ci sarà un'astensione a dei livelli patologici, magari mi sbaglio, ma insomma, sai, sono talmente delusi da tutti, da tutti i partiti che non lo so, questo secondo me ci, oppure poi hanno anche alzato l'asticella per Grillo, mi pare, no? Sì, si parla dello sbarramento, però ancora deve passare questa riforma elettorale. Lo so, però la proposta c'è, insomma, non lo so. Secondo me un sacco di gente potrebbe andare lì. Sai, tra l'altro, poi vediamo se riesco a avere il tempo di leggere almeno qualcuno dei tantissimi messaggi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, perché qualcuno proponeva, adesso non riesco a ritrovare il nome, di levare i soldi ai rimborsi dei partiti per ogni scheda bianca che ci sarà, a proposito tu dici dell'astensionismo. Potrebbe essere una buona idea questa. Sentiamo Fabio da Parma all'800240024. Fabio. Buona giornata. Buona giornata a te, Roberta. Grazie. È tanto che avrei voluto sentirvi. E io, ascoltando adesso, tra l'altro nel frattempo in modo molto rilassato, come insegnate voi donne, ho fatto la spesa intanto che vi ascoltavo al telefono, bellissimo, la prima volta che sei entrata mi sono al telefono. Cioè, quindi tu eri nel supermercato con dentro le cuffiette? Con voi, sì, con una bellissima compagnia, con te, con la signora Pivetti, e ascoltando quello che diceva mi sono venute in mente due parole, perché parlando prima, quando mi ha chiesto la collega di cosa avrei voluto parlare, sentendo che inizio trasmissione ero in auto, dicevi di quello che è successo con Piazza della Loggia, di quella che è stata la sentenza, e dicevo sostanzialmente in Italia quello che ha sempre, io ho superato i 40, voi siete ragazzine, io purtroppo ho superato i 40 anni. Io sono ancora i 20. È la continuità la cosa. Adesso sentendo quello che diceva la Pivetti, è proprio questa cosa. Lei parlava del governo attuale, della Fornero, quello che appunto che dicevate. Sì, che notizia di questi istanti, proprio, certo. Dice il titolo, l'avvertimento di Fornero: se la riforma non passa, quella del lavoro, andremo a casa. Ha detto. Ma allora, da quello che possiamo vedere, io sì, sono un appassionato, nel senso che mi occupo di tutt'altro, ma comunque sia seguo le cose che succedono dove vivo. Quindi è normale pensare che da quando sono bambino, quello che sempre ha lasciato perplessi a noi italiani è la continuità. Cioè, come nei processi, io non ho ricordi dai primi anni 70 oggi di processi di quel tipo, dove non c'è una continuità del tipo che non si arriva a capo di nulla, non ma si neanche sa chi sia stato. In alto, neanche alle mani, non dico alle menti, alle mani, non si arriva mai a capo di nulla. E qui parliamo di persone che, collegandomi a quello che stavate dicendo ora, modifico completamente quello che deve essere la chiamata, perché la vita appunto cambia in continuazione. Parliamo di questo governo che sicuramente è composto da persone molto rispettabili, molto capaci, ma che stanno portando avanti qualcosa che è in continuità con ciò che è stato fatto negli ultimi 20 anni, ed è un peccato. Beh, stanno perché tentando un pochino di fare qualcosa di diverso, no? Che sia positivo o negativo, che ognuno abbia la sua interpretazione sul giudicare delle cose appunto nella linea in coerenza con quello che si pensa o no, no? Uno può essere favorevole alle misure che sta prendendo il governo o meno, qualcosa di diverso sta tentando di fare in ogni caso. È stato usato il termine più corretto che si poteva usare, stanno tentando di fare. Certo. E sappiamo che tutto ciò che è tecnico può essere visto, insomma, possiamo parlare di economisti, tutti molto rispettabili, molto capaci, ma che poi possono applicare le cose in modo completamente diverso, giusto? Cioè, nel senso, essere tecnico vuol dire conoscere la materia, ma poi applicarle in base a quello che secondo noi è la medicina per risolvere, per guarire. E qui appunto stiamo ritornando al discorso per il quale avevo chiamato del processo riguardante la Piazza della Loggia. Io onestamente, nonostante mi viene da dire in questo caso ho solo poco più di 40 anni, non mi aspettavo una sentenza risolutrice, nel senso che si dicesse qualcosa, perché appunto non so. A proposito della continuità di cui dicevi, Fabio, sì, è stato chiaro. Fabio, scusami, dimmi solo, hai fatto un po' di risparmio con la spesa? Cosa hai comprato? No, guarda, onestamente ho comprato un litro di latte che mancava in casa e visto che dopo tanto riesco ad avere un sabato libero, sono entrato giusto per avere qualcosa domattina oltre ciò che è in casa, cioè mi mancava giusto quello per la colazione mattina, ma non volevo pensare a fare queste cose perché non è il sabato, preferisco evitare, posso permettermi a volte di rubarmi qualche minuto durante la settimana per comprare quello che ho bisogno. Fabio, soprattutto per favore il sabato rubati del tempo, anzi regalati del tempo ascoltando Non ci sono più le mezze stagioni dalle 14 alle 15. Ti posso dire una cosa, Roberta? Se si può dire, sì. Che, beh, al di là del fatto che l'ascolto con piacere, ma fino a poco tempo fa la vostra trasmissione era suonata anche da me, sono uno dei co-compositori della vecchia sigla, quindi a maggior ragione vi ho ascoltato da tanti anni, ecco. Ma guarda che coincidenza straordinaria, poi magari allora ci sentiamo, Fabio, che me ne suoni un'altra, va bene? Come vuoi, ci tengo, avere buona una giornata. Ciao Fabio, anche a te. Federica da Verona. Buongiorno. Buongiorno Federica. Volevo salutare lei e la signora Pivetti. Grazie, ti salutiamo Federica. Okay. Io sono un po' attonita a sentire tutte queste cose, accendo la radio e vengo colpita da queste cose negative, perché secondo me i politici dovrebbero dare il buon esempio, dovrebbero essere delle persone integerrime, i politici, gli onorevoli, i senatori, i giudici. E è sempre peggio, vedo una corruzione, collusi, corrotti tutti assieme, via. Altro che non andare a votare, qua bisogna scendere tutti in piazza, sono un po' rivoluzionaria ora. Senti Federica, rivoluzionaria estemporanea potremmo dire, oppure lo si diventa. Senti, lì a Verona, no? Si ricandida il sindaco Tosi, che in questo momento è tutto dentro questo, diciamo, tempesta, questa bufera della Lega, anche se sembra che sia uno dei nomi che più spesso viene citato per dire, ecco, si salva Tosi, si salva qualcun altro, gli altri no. Che ne pensi tu? Io penso che lui sia già staccato da un po', anche se non seguo molto la Lega, non sono di quella corrente politica, anzi in questo momento non sono di nessuna corrente politica. Disillusa, delusa. Sì, non mi riconosco in nessuno. Senti, dimmi una cosa Federica, siccome Napolitano ieri ha detto chi non paga le tasse non è degno di essere italiano, che ne pensi? Allora, ok, mettiamola così, va bene, lui fa il gioco duro. Diciamo che prima di loro, allora, loro devono dare il buon esempio e poi possono permettersi di dire questo. Parliamo, non so, della restituzione dei soldi, finanziamento ai partiti. Ho sentito, non mi ricordo adesso chi fosse, un partito, una persona che diceva che se loro non ottengono i finanziamenti il PD, il PD, in rosso. È il PD, okay. Il PD, credo. E i poveri italiani che non ce la fanno arrivare a fine mese con le tasse indirette che sono elevatissime. Cioè, ma stiamo scherzando? E lasciamoci con questa domanda. Grazie Federica, facci sapere se fai la rivoluzione. E adesso, prima del prossimo aggiornamento per chi sta viaggiando, volevo leggere dalla pagina Facebook a proposito di questa frase di Napolitano, appunto, chi non paga le tasse non merita di essere italiano. Luciano che scrive, dopo 5 centesimi di accise sulla benzina che hanno messo oggi, cioè ieri, le frasi di Napolitano suonano come un irrispettoso sberleffo. Sergio, certo che sono d'accordo, ma noi stranieri che abbiamo sempre pagato e li paghiamo, cosa meritiamo di esserci? Beh, naturalmente, sei un italiano. Cara Roberta, questo annuncio però fa il paio con quello fatto questa mattina dal governo che riporta un eventuale aggravio, anche lui dice 5 centesimi sui carburanti, guarda caso per ampliare il fondo emergente della protezione civile. Va bene il senso civico, ma siamo stremati, gli italiani sono alla frutta, scrive William. Giulia, non mi piacciono più le parole altisonanti, perché non elimina un po' di spese dal Quirinale e ville contro ville non aiuta un po' il popolo, specie le famiglie di quei piccoli imprenditori che si sono suicidati. Manuela, pagare le tasse è una cosa bellissima, vi ricordate lo slogan? Ora chi evade non è italiano, bella frase, che non cambiano la realtà dei fatti, qui si muore. Gianni, anche il garante della Costituzione, se non rispetta il suo ruolo, non merita di essere italiano. Però mi sembra che ultimamente Napolitano sia la figura un po' di riferimento istituzionale in mezzo a tutto questo bailame. Sergio, ma chi spreca le nostre tasse invece merita di essere italiano, siamo uno dei paesi più tassati al mondo e nonostante ciò abbiamo un debito stratosferico, senza parlare del finanziamento ai partiti. Lino, questo presidente si è dimostrato persona di pochi pochi o invisibili valori. Una critica anche da parte di al presidente Napolitano. Largen scrive: secondo me non meritano di essere italiani i politici che ci governano, che rubano i nostri soldi. Alessandro: a una certa età andassero in pensione, questo è il paese di questi vecchi alti papaveri che hanno disegnato e costruito, ora fanno la morale mentre per anni si sono fatti i cavoli loro alla grande. Poi ci sono tantissimi commenti su Bossi, sulla Lega Nord, sui fatti di questi giorni. Vedremo se poi c'è tempo, comunque potete andarvela a guardare tranquillamente la pagina Facebook della trasmissione 800 24 0024. Adesso vorrei sentire, per la prima volta aveva telefonato qualche mese fa, mi sembra, mi aveva incuriosito, adesso vorrei sapere, era intervenuto, vi ricordate, sui baci tra ragazze, questa domanda che avevo fatto a Giovanardi, che poi ha avuto un effetto veramente enorme, diciamo, se ne è parlato per mesi, si è riaperto il dibattito sulla questione omosessuale, dei diritti, cioè ci sono alcune trasmissioni che ogni giorno chiedono ai loro ospiti che ne pensano dell'omosessualità e del bacio tra due persone dello stesso sesso, quindi mi fa piacere se il dibattito si è riaperto. Ma andiamo con il nostro personaggio. Don Severino è un prete, era intervenuto in modo molto liberale, aperto su questo argomento. Che cosa commenteresti oggi in 3 minuti, 2 minuti e mezzo, Don Severino? Innanzitutto buongiorno, buonasera, non so come dire. Ma grazie, quello che vuoi, sì. Di avermi chiamato. No, oggi così, un piccolo commento, ne avevo scelti due, però poi al momento della chiamata ne ho pensato uno. Siccome ognuno di noi giustamente in questo periodo sta pensando a tutta la problematica politica, la Lega, insomma tutta questa situazione, ecco, io vorrei far riflettere su questo punto che ho riflettuto io. A prescindere lo scandalo Lega, lo scandalo dei partiti eccetera, io credo che noi italiani dovremmo preoccuparci semplicemente di una cosa. Cioè, tutta questa problematica porta inevitabilmente pian piano a non credere più nel partito in quanto tale, in quanto persone che garantiscono, diciamo, una democrazia. Allora vorrei ricordare a tutti coloro che ci ascoltano, a prescindere le loro idee, che le dittature di qualsiasi tipo sono nate proprio in ogni nazione in momenti tipo questi, cioè a dire crisi economica molto brutta, decadenza dei partiti, l'attaccamento, diciamo, a chi rappresenta ognuno di noi. E questo cosa ha provocato? Che a un certo momento questo terreno ha prodotto una persona forte. Ecco, io dico, come prete, come uomo, ecco, ognuno di noi valuti tutto quello che sta accadendo, ma non rinunzi mai a ciò che ha conquistato, cioè a dire alla rappresentanza politica e partitica, che i partiti devono migliorare, non devono rubare, tutte le altre cose va benissimo, ma non rinunciamo mai, non deleghiamo mai la libertà che abbiamo ricevuto a una sola persona. È 20 anni che lo dico, sono stato preso in giro, sono stato anche accusato, ho avuto molti problemi, ma lo ripeto, noi siamo in un terreno fertile per un fenomeno di questo tipo. Grazie, questo Don Severino. No, ma sono d'accordo con te, perché effettivamente si dice, attenzione, che questo disgusto verso la politica può portare all'antipolitica e creare terreno fertile per delle svolte autoritarie. Su questo siamo d'accordo, però questi partiti devono cambiare faccia, devono cambiare metodi, devono cambiare atteggiamento, abitudini, perché se è vero che ci meritiamo, come si dice spesso, la classe politica che abbiamo, la classe politica attuale si merita questo disgusto. Però è chiarissimo e molto lucido il tuo ragionamento. Grazie Don Severino, al prossimo sabato. Grazie. Allora. Grazie, ciao. Grazie molto, arrivederci. Ciao. Che ne pensi, Veronica Pivetti? Cioè, è chiaro che il voto, altro che un diritto, è una cosa che noi dobbiamo esercitare, però quello che dici tu è sacrosanto, cioè uno deve anche andare a votare, non dico felice, perché io sono anche un po' stufa di sentir dire, come da quando sono nata mi tappo il naso e voto, bip, e poi metti il partito di turno, cioè è un peccato questo, perché è vero che è un diritto che tutti dobbiamo esercitare, però sarebbe anche bello andare alle urne con un progetto, hai capito? Perché il progetto, certo, non è mica il loro, il progetto è il nostro. Certo. il progetto è per il nostro paese, perché il paese è nostro, allora fatecelo fare un po'. Hai proprio toccato un nervo, il non c'è progettualità, non c'è programmazione, no. I programmi sono quanti soldi ci dobbiamo prendere, insomma, da parte di chi governa, certo. E non è ormai il senso comune, le frasi stereotipate, no, la situazione ogni giorno, ci sono degli aggiornamenti su queste cose, e adesso andiamo all'altro piccolo appuntamento con la nostra Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma, nostra linguista, cara Valeria, io ti sottoporrei triumvirato, visto che questa settimana si è sentito spesso. Sì, è una parola molto nominata. Allora, il triumviro, intanto, in Roma antica era il membro di una magistratura collegiale formata da tre persone, e infatti la parola deriva dal latino trium virum, quindi di tre uomini, formato da tre uomini. Poi, per estensione, in età moderna, con triumviro si è indicato il membro di un organo, di un potere collegiale fatto di tre persone. Per esempio, durante la Repubblica Romana del 1849 i triumviri erano Mazzini, Saffi e Armellini. Con i triumviri ai quali ci si riferisce oggi, diciamo che lo stile cambia. Quando dico lo stile, come sempre mi riferisco solo e unicamente allo stile linguistico. E mi riferisco allo stile linguistico se penso che i triumviri della Lega sono stati presentati ufficialmente in quella serata che molti di noi hanno seguito e alla quale anche vi riferivate, sono stati presentati dal giovane presentatore della cerimonia chiamandoli triumviri. Ecco, allora questo lo dico con tutta l'indulgenza possibile, evidentemente il giovane presentatore vestito di verde non aveva mai sentito prima quella parola, neanche a scuola, ecco, e ne ignorava tra l'altro il significato. Solito commento finale, i triumviri dell'antica Roma e gli illustri triumviri Mazzini, Saffi e Armellini si saranno tutti rivoltati nella tomba. Sentivo un certo rumore, grazie Valeria Della Valle, di rotolamento, grazie. Rotolamento. Grazie, ciao Valeria. Arrivederci. E adesso Giovanni da Pordenone, guarda, perdonami, lo sai quando sono in corsa e comincio a avere l'ansia perché si apre la botola sotto la sedia, hai 24 secondi per dirmi cosa pensi, scusami, sì. Giovanni. Sì. No, beh, ormai, sì. Ormai hanno già letto tutti i messaggi che hanno mandato, quello che volevo dire. Sì. E comunque penso che il bisogno adesso di una legalità sia sicura nei partiti e in tutto quello che noi facciamo. Però Napolitano appunto dovrebbe prima guardare nelle sue tasche, cioè nei cortigiani che lui continua ad assoldare, 260 milioni di euro all'anno, 5 volte quello che spende il Buckingham Palace, eccetera, prima di dire che non si deve fare giustamente. Giovanni, sei stato chiarissimo. Devono sistemare loro i loro conti sprechi. E poi andare in giro. Comunque, a dire quelle cose. Grazie Giovanni, credo che le tasse le paghi, si riferiva a questo Napolitano. Invece Veronica, io ti volevo chiedere adesso delle risposte molto veloci nei pochi, diciamo quel minuto e 32 che ci rimane, che ne pensi del bacio tra due donne che si salutano alla stazione, visto che era stata la frase di Giovanardi di 3-4 mesi fa e continua ogni giorno a essere... Guarda, ti dico che se due persone si amano fanno benissimo a baciarsi e possono baciarsi dove cavolo gli pare. Premetto che qualunque cosa dica Giovanardi o anche che dirà, io mi dissocio. Molto, molto bene. Giovanardi no. Altro tema in questa settimana è venuto fuori sull'argomento che a Londra c'è stata una campagna di un partito conservatore anglicano per mettere dei cartelloni anti-gay sui pullman. Poi invece il sindaco conservatore di Londra si è arrabbiato, insomma, però il casotto era già stato creato, per fortuna adesso comunque se ne è parlato e li hanno tolti. E invece, a proposito, senti, tu che sei tra le varie più belle tue fiction, cioè provaci ancora prof, sai che a Milano due licei hanno vietato a studenti, soprattutto le studentesse, di portare minigonne, pantaloncini corti, troppe scollature, che ne pensi tu prof? Hanno vietato di portare minigonne? Beh, dipende, se andavano seminude, forse erano troppo procaci, non lo so. Oddio, mi sembra sempre che ci perdiamo in dettagli spaventosi. E comunque, per quanto riguarda le scritte lì anti-gay, io credo che ci sia un'omosessualità frustrata veramente molto diffusa. Bene. L'omosessualità è molto più diffusa di quello che pensiamo e di quello che questi condizionamenti culturali. Veronica Pivetti, ti abbraccio, mi si sta aprendo la botola. Grazie, Veronica Pivetti, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti. We'll be right back.